is later than you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude. La fabbrica di polli produce, non cuoce quasi mai. E mentre nella fabbrica di polli la luce della luna rischiara solo pochi angoli, K e Drago, chissà perché, parlano di MP3. We tell you this frankly. If you wish to avoid the excitement and tension of these imaginative plays, we urge you, calmly but sincerely, to turn off your radio now. La discografia sta morendo. Amen. I ragazzi non sanno che cos'è un CD. Amen. La fabbrica di polli distribuisce musica come chicchi di mangime. Una canzone per volta in formato MP3. Amen. I lavoratori del settore sono preoccupati. Amen. Migliaia di posti di lavoro a rischio. Amen. I sindacati si fanno sentire. Beh, per i sindacati ci pensa l'amministratore delegato. Beh, certo. Quando si parla dei sindacati, senza i sindacati presenti, tutti pezzi di merda. E quando c'è il sindacalista in carne ed ossa? Fratello. Siamo sulla stessa barca, viviamo la stessa realtà. Mio nonno era comunista, ha fatto la resistenza. Come potrei essere io di destra oggi, solo perché sono al posto di comando? È tutto alla rovescia. Il podcast farà concorrenza alla radio e la radio entrerà in crisi. Amen. No, ma vabbè, K, dai, cosa dici? Il podcast è morto? È morto. E infatti, il podcast nasce morto perché, non so, per esempio, non puoi trasmettere i Beatles sul podcast. E quindi la radio continuerà ad esistere perché si possono trasmettere i Beatles, visto che paga la SIAE. E la SIAE manda i soldi ai Beatles. Sì, certo, c'è una signora della SIAE di Roma che prepara la busta ai Beatles, Abbey Road, Londra, e manda i soldi a McCartney, no? Così funziona. Così. Sì. Comunque, per chi lo sa sfruttare, Drago, il podcast è una cosa intelligente, perché si finisce nel music store di iTunes. Reclam. E con un MP3, o più MP3. Certo. 10 diventa, MP3, 11 MP3, e c'hai... Diventa 11x3, 30 MP33. E insomma, nel music store di iTunes fai quello che vuoi, con una grande visibilità, pubblichi, togli, aggiorni, certo. Vai in classifica. E quindi viva il podcast, che è morto. È morto. Quelli che scaricano gratis dalla rete cominciano adesso ad avere i primi problemucci. Perché li arrestano? No, tutto. Impazziscono e vanno in clinica a disintossicarsi. Come? Le menti fragili dei ragazzini non resistono all'immensa portata de... Lo scaricabile. Lo scaricabile umano. Sì, è la versione aggiornata de... Lo scibile umano. E quindi? E quindi ci sono ragazzini, quasi mai ragazzine, che non riescono più a staccarsi dal video, perché gli cresce l'ansia di non stare scaricando, capisci? Sì, sì, capisco. E scaricano film, canzoni, suonerie, PDF, MP4, MOV, RAM, SMS, MMS. Sì, e poi? E poi gli vengono i brividi, la nausea, le vertigini, e bisogna disintossicarli a bastonate. A bastonate? Sì, tre belle bastonate. Due weekend in una sala massaggi thailandese. E tutto torna come prima. La fabbrica di polli. Il giorno in cui mi scarico gratuite dalla rete, le scarpe da ginnastica che tanto a me mi piacciono, sarò contento anch'io, amico, che ti scarichi gratuita dalla rete la mia musica fantastica, fin tanto che lo scambio equo non avviene. Io sono parte lesa di questa innovazione. Tu ascolti la mia musica e io cammino scalzo. Saluta Gates e Jobs e digli che li ammazzo. La fabbrica di polli. Io ho una vita, prima della paroxetina. L'analisi. Com'è andata l'analisi? l'analisi? Sono stato uno dei pochi, eh. Cosa, di polli che? Anni fa hanno istituito questo nuovo programma per i polli, per farli produrre di più, ovviamente. E quindi un'analisi per i polli. Ovviamente una psicanalisi fatta da polli, sui polli. Quindi io andavo da un pollo, che poi era una gallina, e ci sono andato per 9 anni, eh. 9 anni? 9 anni di analisi. 3 volte alla settimana, con la gallina. E beh... Ma e non è servita questi 9 anni? No, no, e come no? Sono serviti sì, con la paroxetina. Senza non sono serviti a niente. Però il percorso giusto è questo. Analisi, anni, dai 5 in su, più paroxetina. Ecco, scusa, e il transfer? Anche lei va in analisi. Va in analisi a parlare delle analisi che fa a noi. Quindi lei va da un altro pollo? Sì, ma non a dirgli sono in sbattimento. Guardi che ho un pollo di sbattimento che viene da me 3 volte alla settimana e non riesco a cavare un ragno dal buco. Cosa devo fare? E lui gli dice, gli dia la paroxetina. Ma questo non me la voleva dare. Sapete che gli analisti non è che sono tanto per la quale, quelli psicofarmaci. Alla fine ho finito sto percorso di analisi, perché ho finito il programma, e alla fine sono stato in sbattimento per 6 mesi. Ma uno sbattimento veramente impossibile. Non ce la facevi più a fare a meno della gallina? No, ma ero diventato un problema per la fabbrica. E allora, grazie a me, a 6 mesi di sofferenza, la paroxetina è stata data a tutti. Perché prima no, prima era una vita d'inferno. Adesso ci sta da cani, ma prima era un inferno, adesso con la paroxetina, di riffo di raffa, ci si riesce un po' ad arrangiare. Poi a me le danno sempre un pizzico di più, perché ho fatto la cavia. Adesso poi non ce n'è più di analisti polli, e neanche di pazienti. Adesso c'è uno dei problemi, gli tagliano il collo. Dice, sono un po' in sbattimento, non riesco a covare, non riesco... entro nella gabbia delle gallinelle e non riesco a combinare niente, e gli taglio il collo. Ma uno come me, adesso, gli tagliano il collo e via. E dico, alla fine mi è servita l'analisi. Almeno non mi taglio il collo. In più c'ho ancora il becco. Eccolo il becco. Psycho chicken. Però, K, questa sindrome da scaricamento, MP3, MMS, eccetera, colpisce soprattutto i ragazzini. Mi chiedo perché le ragazzine no. Perché le donne sono superiori, Drago. Sì, insomma, superiori. Diciamo che sono diverse e hanno sindromi diverse, tipo la PMS. Per PMS si intende la premenstrual syndrome, traducibile come sindrome premestruale, e spiegabile con il fatto che le signorine, prima del loro ciclo, spesso diventano intrattabili. Zuai! Vabbè, ma dai, Drago, la PMS, non essere misogino. Zuai! Drago! Zuai! Drago, sei anche tu in PMS? Zuai! Io sono io! Zuai! La mia libertà, il mio spazio, io sono io! Zuai! Perché io? E tu invece? E quella volta? Zuai! Zuai, perché io? Hai capito? Non tu, io! Che cosa succederà adesso? Drago è davvero diventato una trentenne in preda alla sindrome premestruale o sta solo facendo finta? Con questa angosciante domanda vi rimandiamo a domani, a mezzanotte su Radio 3, per il prossimo febbricitante allestimento de... La fabbrica di polli. La fabbrica di polli produce, non chiude. Barlumen.